A pane, burro e rock and roll, sono le 7:30 minuti primi. Iniziamo il secondo blocco della puntata 163. Benvenuti, benvenute voi che accendete l'apparecchio radiofonico solo ora. Buon giovedì! Ci stavamo preoccupando nella prima mezz'ora del reparto gruppo d'ascolto toilette, tutto a posto, tutto bene. Vedo che anche Luca apprezza via mail. Fa sempre piacere, dice Ariel, grazie per l'interessamento. Fa piacere sapere che c'è qualcuno che si preoccupa per te. Volevo dirti che mi sembra giusto che pane, burro e rock and roll inizi alle 5:30. Anche via sms qualcuno raccoglie stupidamente, tra l'altro, l'appello di un radioascoltatore ad anticipare l'anticipo di pane, burro e rock and roll, al quale rispondo così tranquillamente, anche perché non potete vedermi così. Non mi avete visto forse dal rumore, eh? Non so se si può capire oppure no. Questo, eh? È il classico gesto dell'ombrello. Chi è? Grazie alle ansie in ansia, agli strano ma vero, ne scopriamo di giorno di stupidate in giro per il mondo, eh? Ma sappia, dottor Ariel, che è una mia rubrica tra le preferite. A volte scopriamo che è possibile venire licenziati, che ne so, per problemi di flatulenze, già ce ne eravamo occupati. Sì, il problema della flatulenza già ci aveva in qualche modo interessato. Un problema che ci sta molto a cuore, so che a lei interessa particolarmente. Ma sì, da studioso, naturalmente. E va di lanciare la sigla. sigla perché avrei una nuova notizia, niente male. Andiamo con la sigla. Ha un alito fatale, licenziato il portiere. È successo a New York. Il portiere di un condominio di Manhattan è stato licenziato perché affetto da un gravissimo problema di alitosi, fra virgolette, fulminante, per così dire. Il termine fulminante, stando a quanto spiegato dai condomini, deriva dal fatto che la persona inquisita sarebbe in grado di stendere un cavallo con un sol sospiro. L'uomo, tal Mr. Jonah Seaman, in servizio allo stesso palazzo della East 89esima strada, da ben più di 40 anni, quest'uomo, pensate, da ben più di 40 anni faceva il portiere nello stabile, si è difeso dicendo di aver smesso di mangiare aglio, una delle sue passioni di sempre, ed aver cominciato ad impiegare regolarmente il colluttorio, oltre che a masticare delle mentine durante il corso dell'intervento. Era giornata. Il Seaman nel corso del 2007 è stato sospeso dal lavoro due volte, sempre con la stessa motivazione. In sua difesa si è schierato soltanto un inquilino, Mr. Adam Reingold. Il suo lavoro, ha detto il Reingold, è di aprire la porta, non la bocca. Infatti, bravo, bravo. Spezziamo una lancia anche a noi in favore del portiere. Giusta osservazione. Puzzone. Giusta osservazione di Adam Reingold, perché in effetti sarebbe forse bastato che il portiere in questione avesse tenuto la bocca serrata. Cosa sta facendo Ariel? Faccio le mani a coppetta per vedere se puzzo. Beh, può risparmiarsela. Glielo posso confermare io. E me, che c'è? Buongiorno anche a Lillo che sta facendo il letto con Rock FM, poi esce nei vicoli di Genova con la radio in cuffia e appena in ufficio accende la radio con Rock FM, come tutti i giorni. Sei contento, mi scrive. Sì, mi fa piacere sapere che siete così felici. Come mi fa impazzire questo messaggio che conia ufficialmente il prossimo tormentone di Rock FM. Brava Lorena, mi piace un sacco. Di solito sono una delle mezzoriste di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Mi piace i mezzoristi del reparto maledetto ascolto frazionato. Lei di solito ci ascolta nella seconda mezz'ora, oggi però ha la febbre distrutta e intasata, quindi ha puntato la sveglia alla solita ora per ascoltarci e infierisce fino alle 9. Brava, questa è la cura, complimenti Lorena, una mezzorista di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Ovviamente me lo dimenticherò già tra 10 minuti. Redazione, se ti va ogni tanto di ricordarmi, chiamali mezz'oristi, che è carino, va bene. Occupiamoci invece del duro problema del precariato. Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, scriveva il nostro rocker di riferimento qualche anno fa. Non c'è gusto in Italia ad essere rocker ed essere completamente spiantati. Bisogna arrotondare. Come fare? Roberto Fricantoni si arrangia un po' come può. Riesce anche a fare il tecnico dei computer. Sì, da qualche giorno lo sta facendo. È vero, non ci capisce niente di computer, però di solito gli va bene. E allora, signor Antoni, benvenuto nell'azienda Duse Electronic Corporation. Che mansione sa svolgere? Ma non per essere immodesto, signor direttore, ma so fare un po' di tutto. Quindi lei è esperto di computer? Ma sono un tecnico professionista, un vero esperto, è il mio pane quotidiano. E allora è assunto, buon lavoro! La ringrazio, direttore, non se ne pentirà. Salve, sono Frick della Duse Electronic Corporation, pronto a risolvere ogni problema tecnico abbia il suo personal computer, mi dica. Ho capito, ha provato ad inserire la spina? Ha provato ad accendere il tasto power e a spegnerlo? Come telecomando? Ma scusi, canale 5 non si vede nel computer, lei mi sta parlando del televisore. Il computer è lì a fianco. Grazie per aver chiamato e arrivederla. Sono giorni di gloria quelli che canta Bruce Springsteen in Glory Days, come sono giorni di gloria quelli che accoglieranno il nostro Matte, il chitarrista di riferimento di Pane, Burro e Rock and Roll. Lo abbiamo conosciuto in settimana a 13 anni, come giusto che sia. sta andando a scuola, fa la terza media, ma ha una chitarra elettrica e soprattutto ha una sua band. Ciao Matte, bentornato. Ciao Ieri, come stai? Bene, tu? Tutto a posto? Tutto a posto, grazie. Sempre in viaggio per la scuola? Sì, sempre, purtroppo. Senti, hai già fatto sapere ai tuoi genitori che in realtà vuoi fare la rockstar, quindi insomma la scuola prima o poi la tagliamo? Sì, gliel'ho detto. Sono contenti, vero? No, sento una madre in sottofondo che dice di no e concordo con la signora. Allora, occupiamoci. Allora, noi ti avevamo fatto una promessa di, sì, di chiedere proposito, cioè di inventarci dei nomi per la band. Ecco, sto aspettando. Io te lo dico, sono i radioascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll, cioè non è che ci fosse da aspettarsi tantissimo, eh. Io resto dell'idea che poi ve lo dovete trovare voi, però te li dico, The Sbarbats, gli sbarbati. Sbarbats, aspetta, eh. Ah, te li scrivi anche? No, mi scordo. No, se no andiamo avanti troppo, facciamo che poi ti scrivo magari una mail e te li elenco tutti, intanto te li dico a voce. The Butterbread Rock and Roll Band, questo che fa riferimento a Pane, Burro e Rock and Roll, potrebbe essere carino. The Sleepers, perché sai, molti hanno notato che hai un po' questo aplomb rilassato. Infatti. Tra l'altro, confesso, prima l'ho sentito in fuori onda, a che ora ti svegli, Matte? Alle 6.45. Che è bello presto. Sì, presto. Però mi hai confessato, ma mi piace fare le cose lente. Io fo lento, tranquillo, mi sveglio un po' prima. Fai bene. Ma anche con la chitarra hai l'approccio lento? Con la chitarra faccio più veloce. Ah, vai giù, smanettone. Perché mi impegno di più. Senti, questo è cattivo. The Poor Ideas But Confused, le poche idee ma confuse. The Snatch, oppure The Fantasy, questo è un po' pesantino come noi. Chiedono, questo Amy da Firenze chiede se vi serve un Rodi. Sai cos'è un Rodi, Matte? No, lo so. È fondamentale se vuoi avere una band. Allora, l'altro giorno abbiamo deciso che la band si deve fare per conquistare le ragazze. Sì. Qui lì c'eravamo. Sì. L'altra cosa carina è avere dei Rodi. Sono gli aiutanti i Rodi. Ah, sì, ci sta. Però si chiamano. Ah, ce l'avete già? Ci sta. No, scusa, no. Ma perdonami, avete fatto due prove nella vostra vita e già c'hai il Rodi? Sì. E chi è? È uno che si conosce noi. Che non suona niente. No, non suona nulla. Però vuole fare il Rodi. Matte, attenzione. Se vuol fare il Rodi è una cosa, se vuol fare il manager è un'altra, sono due par di maniche. Sì. Lui cosa vuol fare? Sei sicuro che vuol fare l'aiutante? No, io voglio fare il Rocky. No, ma l'altro, quello che dici che vuol fare il Rodi. Sì, non suona punti strumenti. Ma stai attento che magari attacca e dice no, io vi do una mano, poi inizia a dire no, voglio fare il manager, vi aiuto io, bisogna. Boh, non lo so. Siamo tranquilli, chiesto qua, come si chiama? Si chiama Alain. Alain. So, e tra le altre cose è carino? No. Allora va bene. Chiediamo scusa da lei in diretta. Spero non sia all'ascolto, ma se non se è no, carino va bene. Se no tu ce lo fai da manager. Guarda, da manager? Esatto, no, pensavo dicessi da Rodi, ti stavo già rifacendo il gesto dell'ombrello proprio così. Matte, ci risentiamo nei prossimi giorni. Quando è che dovresti avere le prove? Venerdì? Venerdì sera verso le 7:30. Ok, noi intanto andiamo avanti a accumulare nomi e poi si vede. Ok, mi raccomando, Rodi, che faccia il Rodi e non il manager, eh? Ok. Reparto manager ce ne occupiamo poi un'altra volta. Ciao caro! Ok, ciao, buona giornata. Grazie, ciao. Vabbè, guarda che il reparto manager è un casino, eh. Ah, io sono della scuola, si fa tutto da soli. E secondo me anche Matte dobbiamo istruirlo in questo, autoproduzione. Sì, autoproduzione. We'll be right back. nonostante sia un 17, ancora, nonostante mette sia il dito nella piaga, lei, gennaio, il primo mese dell'anno, è un po' come l'anno il primo della svolta della settimana. Esatto, se non fosse l'anno della svolta sarebbe come il primo, un lunedì, il primo giorno della settimana. Nonostante questo, noi abbiamo i nati del 17 gennaio. Beh, perché no? Perché no? 1899. Il 17 gennaio nasceva Al Capone. Alfonso, per gli amici, Al Capone. Grande criminale statunitense, arrestato poi per problemi fiscali. Bravissimo. Bene, non per, per le malefatte, per le marachelle che combinava. Per le ammazzatine che combinava. Ricordiamo il famoso massacro di San Valentino, dietro il quale è oramai storicamente accertato c'era lui in sostanza. Passiamo come mandante organizzatore. Ad un altro compleanno. Ma sì, passiamo, passiamo. Diceva anche lui oggi, nel 42, Muhammad Ali, pugile statunitense. Il grande Muhammad Ali, era poi Cassius Clay, mi pare, certo, no? Certo, che cambiò il suo nome sposando la religione musulmana. Musulmana, che adesso vediamo, ahimè, impietosamente un po' preda del Parkinson, e quindi gli rivolgiamo un caldo saluto affettuoso, senza alcuna ironia, ovviamente. 1949 nasceva Mick Taylor, celebre chitarrista dei Rolling Stones, quello che sostituì Brian Jones in un primo ma tempo. Ma lei ne sa una più del diavolo, maestro. È il diavolo che ne sa una meno di me. Dice? La correggo. Ottima battuta, di repertorio? No, istantanea, improvvisata. Bene, quando così uno è un genio anche il 17 di gennaio. A proposito di comici, chiudiamo con il compleanno di Jim Carrey, attore canadese del 62, che ho rivalutato nel corso dei suoi film. A me quando è piaciuto, soprattutto, anche io pensavo che gigionasse un fosse po' troppo, fosse un po' stupidotto, sì, tipo Sventura, ma quando ho visto The Mask io ho capito che lui aveva qualcosa in più, era la persona perfetta, perché insomma c'era anche una bella storia, questa maschera che dà finalmente vita ai tuoi sogni, te la metti più pazzeschi su e diventi quello che vuoi, pazzesco. Bello, bello, con tutti i pro e i contro del caso, ma insomma ce l'avessi qui fra le mani, me la passasse, ecco, la se lei, ecco, la domanda è questa, me se lei Ariel chiuderei gli occhi e direi chi vorrebbe essere? Fricantoni. Io voglio diventare Fricantoni. Ottima scelta. Del resto c'è chi in passato voleva diventare come Biagio Antonacci, quindi invece gli è andata pure bene, mannaggia. It's a Take it easy. Alle 7:58 minuti primi, stiamo per terminare la prima ora di questa puntata 163, ma c'è un po' di emozione perché... E allora il tormentone potrebbe essere questo. C'è un po' di emozione perché c'è la radio promozione. Eccoci qui. Panorama ha selezionato per voi la più grande musica rock di sempre, gli album leggendari che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo, gli artisti divenuti veri e proprie icone del rock, i brani che rimarranno nella storia della musica. Domani in edicola con Panorama trovate Dire Straits, Making Movies, il disco che ha segnato lo storico successo mondiale della band, una tracklist indimenticabile grazie a pezzi di culto come Tunnel of Love e la romanticissima Romeo and Juliet, un disco che è un autentico capolavoro della musica rock. Lo trovate domani in edicola con Panorama, quindi tutti in edicola a comprare Panorama che ci sono i Dire Straits, mi raccomando, dite che ve l'ha detto Pane, Burro e Rock and Roll.